casa domani ti fermerai e nel domani ti prenderai e poi domani tu ci spari se vuoi. Ciao, sono Flavia.